Noi troviamo la signorina Ofelia seduta nella sua cabina del piroscafo, circondata da un ammasso di bauli, canestri, scatole e sacelli di cui ella si dà viva premura. Orsù, Eva, guarda se tutte le cose tue sono in ordine. Tu non ci pensi nemmeno. Già, i ragazzi sono tutti uguali. Vediamo il sacco a fiori. Eccolo lì, è uno. La scatola di cartone azzurro che contiene il tuo bel cappellino. E due. La valigia di gomma elastica. E tre. La mia cassetta da lavoro. E quattro. Il mio cartone, la mia scatola dei colli. E sei. La valigetta di pelle. E sette. E il tuo ombrellino dov'è? Dammelo che lo metta col mio, così, così va bene. Ma cugina, a che serve? Andiamo diritti a casa? Oh, bisogna aver cura delle robe se si vuole che rimangano pulite e durino un po' a lungo. Che cosa ne è del tuo ditale? Davvero non lo so? Ah, vediamo la tua cassettina. Ecco il ditale, la cera, due cucchiaini, le forbici, il coltello, l'astuccio da lavoro. Sì, c'è tutto. Ma dimmi un po', bimba, come facevi quando viaggiavi col babbo? Di certo perdevi ogni cosa. Sì, è vero, cugina. Ho perduto molte coserelle, ma quando ci fermavamo in qualche luogo il babbo me ne comprava delle altre. Dio, che maniera di vivere! Eppure mi piaceva tanto. Ma un disordine simile non si può ammettere, soggiunse Miss Ofelia. Ebbene, ditemi ora, cugina, in questo baule c'è troppa roba per poterlo chiudere. Bisogna chiuderlo ad ogni modo, disse la cugina col piglio risoluto d'un generale. E dopo averne stretto quanto più poteva il contenuto, pigiò il coperchio, ma nonostante i suoi sforzi, vide che rimaneva una piccola fessura tra il di sopra e la parte inferiore. Monta qui, Eva, disse Ofelia coraggiosamente. Ciò che è stato fatto una volta può essere fatto di nuovo, il baule si deve chiudere. E intimorito forse da una volontà così energica, il baule cede, il fermaglio cigola ed entrando nella toppa, Miss Ofelia girò la chiave e se la pose trionfalmente in tasca. Eccoci pronte. Dov'è ora il tuo babbo? Sarebbe tempo di fare portare via tutta questa roba. Guarda se vedi il babbo, Eva. Sì, è là nella sala di conversazione, sbuccia un'arancia. Oh, sono sicura che gli ignora che siamo vicini ad approdare. Non sarebbe meglio che tu andassi a dirglielo? Oh, il babbo non ha mai fretta, rispose Evangelina. E poi c'è tempo, non siamo ancora al luogo dello sbarco. Venite, meco, alla finestra, cugina, guardate là. Ecco la nostra casa su quell'altura, in cima a quella contrada. Il piroscafo, sibilando e gemendo come un mostro stanco, aprivasi il varco fra i molti legni che ingombravano gli accessi del molo. Evangelina indicava allegramente col dito le cupole, i campanili e i monumenti di cui diceva il nome. Sì, carina, tutto è veramente magnifico, disse Ofelia. Ma poveri noi, la nave è già ferma e il babbo non si vede? Incominciò il trambusto che è solito accompagnare gli sbarchi. Si vedevano correre servi, facchini che si contendevano i bagagli dei passeggeri, donne che cercavano e chiamavano i loro figli e tutti facevano calca per scendere nelle barchette. Miss Ofelia, dopo aver schierato in ordine di battaglia tutti i suoi arredi, si pose risolutamente a sedere sopra il baule vinto, deliberata a difendere la sua proprietà fino all'ultimo. Devo prendere il vostro baule, signora? Volete che mi incarichi dei vostri fagotti e canestri? Spetta a me, signora, di portare i vostri bagagli. No, signora, tocca a me di servirvi. Tali grida assalirono Miss Ofelia da tutte le parti, ma ella, ritta e impettita, tenendo in mano il suo fascio di ombrelli e ombrellini, rispondeva negativamente in modo da scoraggiare un cocchiere di piazza. Ma che diamine pensa dunque il tuo babbo? Disse ella impaziente a Evangelina, non potendo comprendere dove egli si trattenesse in quel momento importante. Spero bene che non sia caduto in mare, ma qualche guaio gli è capitato senza dubbio. E mentre le sue apprensioni crescevano, eccolo sopraggiungere col suo solito fare sbadato e offrire alla fanciulletta uno spicchio di arancia. Ebbene, disse poi, cugina, siete pronta? È un'ora che son pronta, rispose Miss Ofelia. Veramente cominciavo a stare in pensiero per voi, Agostino. Oh, andiamo dunque, la carrozza ci aspetta. La gran folla si è diradata e potremo sbarcare in un modo decente da cristiani, senza troppi urtoni e spinte. Ehi, soggiunse volgendosi ad un cocchiere, portate via questa roba. Io vado subito a vedere come collocherà ogni cosa, disse Ofelia. A che serve, cugina? Disse Sinclair. Beh, in ogni caso questo lo porterò io e quest'altro e questo pure, soggiunse Ofelia, mettendo da parte tre scatole e un sacco. Cara cugina, non bisogna portar qui fra noi coteste abitudini delle montagne verdi. Sarà bene che vi conformiate ai nostri costumi meridionali. Carica in tal modo vi prenderebbero per una fantesca. Su via, date tutto a costui che porterà ogni cosa come se portasse delle uova. Miss Ofelia rivolse uno sguardo disperato al cugino che le involava i suoi tesori, né fu tranquilla fino a che non li vide ben assestati vicino a lei nella carrozza. Dov'è Tom? Chiese Evangelina. È a cassetta, amor mio, ne faremo un regalo alla mamma. Voglio metterlo al posto di quell'ubriacone che fece ribaltare ultimamente la nostra carrozza. Oh, Tom sarà uno stupendo cocchiere, ve lo assicuro io, disse Evangelina. Per certo non si ubriacherà mai. La vettura si fermò dinanzi a un'antica abitazione edificata in quello stile metà francese e metà spagnolo, di cui si vedono tuttora alcuni residui in New Orleans. Il cortile dove la carrozza entrò, per una porta a sesto acuto, era perfettamente quadrato e cinto di un portico alla moresca. L'interno di questo cortile era stato evidentemente architettato per soddisfare il gusto di un uomo voluttuoso e di vivace immaginativa. Ai quattro lati si aprivano vaste gallerie che per i loro archi, per le colonnette leggere e i graziosi arabeschi, riconducevano il pensiero come in un sogno a quel tempo in cui dominava nella Spagna la fantasia orientale. In mezzo al cortile si elevavano in aria gli zampilli argentei di una fonte per ricadere in una vasca di bianco e lucido marmo guarnito d'un folto orlo di viole. Nell'acqua del bacino, limpida come il cristallo, si vedevano guizzare migliaia di pesciolini dalle squame d'argento e d'oro che scintillavano come gioielli viventi. Intorno alla fontana girava un sentiero a mosaico di pietruzze variamente colorate di un disegno fantastico e questo era circondato a sua volta di erba fittissima pari a un velluto. Una larga via di sabbia per le carrozze correva lungo i portici. Due grandissimi melaranci coperti di fiori effondevano molta fragranza e molta ombra ai vasi marmorei, adorni di sculture disposti in bell'ordine fra le aiuole, sostenevano le più belle piante dei tropici. Mescolavano i loro vivaci colori e profumi, il melagrano con le foglie lucide, il fiorellino color di fuoco, il gelsomino arabico, le cui stelle d'argento spiccano sopra le foglie di un verde cupo, il geranio, i rosai che si incurvavano sotto il peso dei loro fiori, il gelsomino dorato, la verbena odorosa, mentre qua e là qualche antico aloe con le foglie grigiastre e massicce pareva assistere, come un canuto negromante, allo sbocciare e alla morte di quei fiori brillanti ed effimeri. Tende di tessuto moresco, disposte intorno alle gallerie, rimuovevano più o meno abbassate i raggi del sole. Quella residenza aveva un aspetto sontuoso e romantico. Quando la carrozza fu là dentro, Evangelina, tutta festosa, sembrava un uccello pronto a fuggire dalla gabbia. Non è bella, non è piacevole la mia casa diletta? Domandò a Miss Ofelia. Non è magnifica? Sì, è graziosissima, rispose Ofelia, smontando di carrozza, ma il suo aspetto mi pare che sia un po' antico e poco cristiano. Tom, sceso da cassetta, guardava intorno a sé con aria di tranquilla e profonda contentezza. La gente nera, conviene rammentarsene, appartiene alle più splendide contrade del mondo e ha in cuore una passione profonda per tutto ciò che è splendido, grandioso e fantastico. Questa passione, a cui si abbandona senza ritegno, suol provocare su di esso le beffe e i dileggi della razza bianca, più corretta e più fredda. Sinclair, che aveva nell'anima il senso poetico della bellezza, sorrise dell'osservazione di Miss Ofelia e, voltosi a Tom, che stava contemplando ogni cosa con vera ammirazione, gli disse: Ebbene, figliuolo mio, ti piace? Oh sì, padrone, rispose Tom, è una meraviglia. Mentre si scambiavano queste parole, Era stato già pagato il cocchiere e le robe già tolte dalla vettura. Intanto una frotta di servi, di donne e di fanciulli erano accorsi da ogni lato per vedere il padrone che giungeva. Il primo a venire innanzi nel cortile fu un giovane mulatto che appariva persona distinta dal suo modo di vestire, secondo il figurino della moda, e nella cui mano si vedeva un profumato fazzoletto di tela batista. Egli si era adoperato col massimo zelo a respingere energicamente la torma dei servi dall'altro lato del portico. «Indietro tutti, mi vergogno di voi», disse egli con accento di autorità. «Chi vi dice di cacciarvi innanzi nelle relazioni domestiche del padrone sul primo istante del suo ritorno?» Questo elegante discorsetto, pronunciato con molta dignità, li fece rimanere a una rispettosa distanza, intimoriti, eccetto due vigorosi giovanotti che presero a scaricare e trasportare i bagagli. Per le sistematiche disposizioni del signor Adolfo, quando St. Clair tornò dopo aver pagato i facchini, non vide più alcuno intorno a sé tranne lo stesso signor Adolfo, in calzoni bianchi, panciotto di raso adorno di una catenella d'oro, tutto inchini e garbatezze. «Ah, sei tu, Adolfo. Come va, figliuolo mio?» gli disse il padrone stendendogli la mano mentre quegli sciorinava un discorsino preparato già da 15 giorni. «Benissimo, benissimo», gli disse St. Clair, passando oltre con l'aria solita di noncuranze e di beffe. «È un bel discorso, Adolfo. Sistema i bagagli che io ritorno subito». E così dicendo, condusse Miss Ophelia in una gran sala che metteva sulla veranda. Mentre succedevano queste cose, Evangelina si era slanciata attraversando il portico e la sala in un salottino che dava ugualmente sulla veranda. Una donna alta, con gli occhi neri, pallida, si sollevò alcun poco sul soffà dove era distesa. «Mamma!» esclamò Evangelina con gran letizia, abbracciandola più volte. «Mamma mia! Basta, figliuola, basta! Abbi riguardo, tu mi accresci il dolor di capo!» disse la madre dopo averla abbracciata con languidezza. St. Clair entrò anch'egli, abbracciò la moglie in modo affatto ortodosso e coniugale, indi le presentò sua cugina. Maria alzò i grandi occhi sopra di lei con una certa curiosità e l'accolse con indolente cortesia. Un drappello di schiave faceva allora calca all'uscio per entrare e fra esse una mulatta di età matura e assai rispettabile d'aspetto si fece innanzi con un tremito di commozione e di gioia. «Ah, ecco mammi!» gridò Evangelina attraversando la stanza come una freccia e le si avvinghiò al collo. Questa donna non si lagnò che le facesse venire il mal di capo, anzi la strinse fortemente al suo seno, ridendo e piangendo in guisa da far dubitare della sua ragione. Staccatasi da lei, Evangelina corse dall'uno all'altro dando strette di mano e baci, della qualcosa Miss Ophelia, come disse poi, si sentì rivoltare lo stomaco. Disse Ophelia, voi altri del sud fate certe cose a cui io non potrei piegarmi. Che cosa di grazia? Domandò St. Clair. Sì, io sono cortese con tutti, né mai commetterei cosa che offenda, ma abbracciare e poi. Abbracciare i neri? Disse interrompendola St. Clair, non lo fareste, eh? No, davvero? Come mai ella può farlo? St. Clair rise e uscì dalla stanza. Olà, qui tutti. Mammy, Jemmy, Polly, Sacchi. «Siete contenti che è tornato il padrone?» disse e distribuiva strette di mano intorno a sé. «Badate ai ragazzi», soggiunse inciampando in un piccolo nero che camminava a carponi. «Se pesto le zampe a qualcuno, pazienza!» Gli schiavi ridevano di tutto cuore e benedicevano il padrone che dispensò loro alcune piccole monete. «Andate ora come buoni figliuoli», disse egli. E tutti quei volti scuri e chiari prestamente sparirono, seguiti da Evangelina, che portava un sacco pieno di mele, noci, canditi, nastri, merletti e ogni sorta di gingilli di cui aveva fatto nel suo viaggio un'abbondante provvista. St. Clair, voltandosi per andar via, scorse Tom che se ne stava tutto rannicchiato in un angolo, mentre Adolfo, appoggiandosi indolentemente alla balaustrata, lo squadrava col binocolo come uso dei ganimedi eleganti. «Ah, Mariuolo!» disse il suo padrone abbassandogli l'occhialetto. «In questo modo tratti un compagno che ti conduco? Ma se non erro, Adolfo», soggiunse ponendo il dito sul panciotto di raso ricamato, «questo è il mio panciotto». «Oh, signore, un panciotto insudiciato di macchiuzze di vino. Un signore della qualità del mio padrone non era decente che lo portasse più. Conveniva soltanto a un povero nero come me». E Adolfo crollò la testa e si lisciò con grazia i profumati capelli. «Via, via! Quel che è stato», disse negligentemente St. Clair. «Ora io vo' a presentare Tom alla sua padrona e tu lo condurrai poi alla cucina, ma bada bene di non stare in sussiego con lui perché egli vale per due bricconi come te». «Oh, il padrone si diletta a scherzare», disse Adolfo ridendo. «Io sono lietissimo nel vederlo di sì buon umore». «Vieni qua, Tom», disse St. Clair accennandogli di seguirlo. Tom, entrato nella sala, volgeva gli occhi attonito su quei morbidi tappeti, su quello splendore mai visto di specchi, pitture, statue, e come la regina di Saba al cospetto di Salomone, era in estasi e osava appena porre il piede sul pavimento. «Maria», disse St. Clair alla moglie, «ti ho comprato finalmente un buon cocchiere e non meno sobrio che nero. Egli ti condurrà, se vuoi, a passo di funerale. Su, dunque, apri gli occhi e guardalo. Non dir più che io non penso a te quando sono assente». Maria, senza muoversi, aprì gli occhi e guardò Tom. «Son certa che si ubriacherà», disse ella. «Oh no, m'è stato garantito pio e temperante. Desidero che non vi abbiano ingannato, ma ne ho i miei dubbi». «Adolfo», ripigliò St. Clair, «mena Tom giù in cucina e rammenta l'avviso che ti ho dato». Adolfo si ritirò saltellando e Tom lo seguì di passo pesante. «È un vero mastodonte», disse Maria. «Su dunque, mia cara», riprese suo marito sedendosi sopra uno sgabello accanto al sofà. «Sii un po' graziosa e di qualche cosa di bello al tuo amico». «Sei stato fuori 15 giorni più del convenuto», disse ella facendo una smorfia. «Non te ne scrissi il perché?» «Oh, una lettera di due parole, fredda fredda. Buon Dio, il corriere partiva e mi era forza inviare quelle poche righe o niente. È sempre così, e sempre si trovano pretesti per allungare i viaggi e accorciare le lettere». «Oh, vedi un po' questo», disse allora St. Clair traendo di tasca una scatola di velluto che aperse. «È un dono che ti reco da New York». Era un ritratto al daguerrotipo, ben impresso e chiaro come un'incisione, rappresentante Evangelina e suo padre che si tenevano per mano. Maria lo guardò con aria di poca soddisfazione. «Perché prendere una posa così goffa?» disse. «La posa dipende dal gusto di chi la sceglie, e se non piace agli altri, piace a me. Ma che ne dici della somiglianza?» «Oh, se la mia opinione vi è indifferente in una cosa, suppongo che debba esserlo non meno nell'altra», rispose la signora riponendo il ritratto nell'astuccio. «Hai il diavolo addosso», pensò il marito. Poi soggiunse a voce alta: «Orsù, Maria, bando alle fanciullaggini. Ti pare somigliante o no?» «Avete torto, St. Clair, di volermi costringere a far parole e a guardare simili inezie. Sapete che ho avuto tutto il giorno una forte emicrania? Da che siete arrivato mi è stato fatto intorno tanto fracasso che non reggo più». «Andate soggetta all'emicrania, signora?» disse Ofelia, sorgendo d'improvviso dalla profondità d'un seggiolone dove era seduta, intenta a fare l'inventario di ciascuno dei mobili e a calcolarne il prezzo. «Oh, sì, molto», rispose Maria. «Ne soffro come una martire». «Il decotto di ginepro è un ottimo, eccellente rimedio per questo male», disse Ofelia. «Così almeno mi accertò sempre la moglie del diacono Abram Perry, che sapeva guarire un'infinità di mali». «Darò subito ordine che si colgano le prime bacche di ginepro che matureranno in giardino e sulle rive del lago», disse gravemente St. Clair, tirando il cordone del campanello. «Intanto, cugina, voi dovete avere bisogno di riposarvi dalla fatica del viaggio. Adolfo, dite a Mimi che venga». La dignitosa mulatta, che Evangelina aveva sì teneramente abbracciata, entrò con in testa un gran turbante rosso e giallo che la fanciullina le aveva recato in dono e che le aveva acconciato in capo con le sue proprie mani. «Mimi», disse St. Clair, «affido questa signora alle vostre cure. Ella è stanca e ha bisogno di riposo. Conducetela alla sua camera e fate che non le manchi nulla». E Miss Ophelia, preso commiato dai due sposi, seguì la mulatta. 16. La padrona di Tom. «Adesso, Maria», diceva St. Clair, «ecco che incominciano per voi i giorni d'oro. È qui nostra cugina, buona e operosa massaia della Nuova Inghilterra, la quale si assumerà, alleggerendone voi, tutto il governo della casa e vi lascerà il tempo di tornare giovane e bella. Sarà perciò necessario che prima di tutto le venga fatta la consegna delle chiavi». St. Clair faceva queste osservazioni a sua moglie durante la colazione e presente a Miss Ophelia pochi giorni dopo l'arrivo di quest'ultima. Ella è la benvenuta, disse Maria, appoggiando languidamente il capo sulla propria mano. Ma spero che Miss Ofelia si avvedrà ben presto come in questa casa le vere padrone siano invece le schiave. Oh, certamente se ne avvedrà e scoprirà anche molte altre verità, rispose sorridendo St. Clair. Ci viene rimproverato di tenere degli schiavi come se noi li tenessimo per i nostri comodi, riprese a dire Maria. Ma in verità, se consultassimo i nostri comodi, ci sbarazzeremmo di tutti costoro. Evangelina fissò in volto alla madre i suoi grandi occhi pieni di gravità e disse ingenuamente: Perché dunque, mamma, seguitiamo a tenerli? Oh, davvero non saprei dirtelo. So bene che costoro sono il tormento della mia vita e ho l'intima convinzione che la mia malferma salute provenga in gran parte da loro. E un'altra verità è che tutti gli schiavi, i peggiori, i più detestabili, sono i nostri. Maria, esclamò St. Clair. Stamani vi siete alzata di cattivo umore. Mammy, ditemi, non è forse la migliore creatura che esista? Come potreste fare a meno di lei? Mammy è la più buona che io finora abbia conosciuta, e ciò nonostante, replicò Maria, ella è un'egoista, spaventosamente egoista. Ma già, questo è il difetto di tutta la sua razza. Ah, l'egoismo è un gran difetto, esclamò gravemente St. Clair. Infatti, non è forse un orrore? Riprese Maria, quel suo dormire così profondamente la notte, quando ella pur sa che, ammalata come sono, posso ogni momento aver bisogno delle sue cure. Ma no, lei dorme, che ci vuole un anno a destarla. E se stamani io sto peggio del solito, ne son causa appunto gli sforzi che ho dovuto fare questa notte per svegliarla. Non ha ultimamente vegliato vicino a voi per molte notti, mamma? Domandò Evangelina. Come lo sapete? Fece con piglio severo Maria. Colei se n'è lagnata, suppongo. No, mami, non si è lagnata, soltanto mi ha detto le cattive notti che voi avete passate di seguito. Perché, Maria, non fate prendere il suo posto a Giovanna o a Rosa per una notte o due, tanto che la si riposi un poco? Suggerì St. Clair. E voi potete farmi una proposta simile? Disse Maria. Nervosa come sono, il più lieve soffio mi irrita e una mano estranea che mi toccasse mi renderebbe frenetica. Se mammi sentisse per me l'affezione che pur dovrebbe, si sveglierebbe con minore difficoltà. Ho udito talvolta più di uno lodarsi dell'amore dei propri servi, ma io non ho avuto mai questa fortuna. E Maria sospirò. Miss Ofelia aveva ascoltato questi discorsi con piglio grave e attento. E tacita, le labbra fortemente compresse, mostrava la ferma determinazione in cui era di voler ben esplorare il terreno prima di farvi un sol passo. Mamy, ripigliò a dire Maria, ha una tal quale bontà, è amorevole e rispettosa, ma cova l'egoismo nel cuore. Ella, per esempio, non cesserà mai d'annoiarmi e di tormentarmi a proposito di suo marito. Quando dopo il mio matrimonio mi recai a vivere qui, necessariamente dovetti condurre me con Mammy e mio padre non avrebbe potuto farla seguire da suo marito, il quale è fabbro, e perciò, come sapete, è molto necessario a mio padre. Io dissi allora che Mammy e lui avrebbero fatto meglio a rinunciare l'uno all'altro, essendo improbabile che potessero mai riconvivere insieme. Mi duole oggi di non aver insistito su ciò e di non aver dato a Mammy un altro marito. In verità fui troppo buona e indulgente. Dovevo rimaritare questa schiava. È vero però che io non mancai di avvertirla che poteva abbandonare la speranza di rivedere suo marito più di una o due volte nella sua vita, poiché l'aria della campagna dove dimora mio padre non si confà alla mia salute e io non posso recarmi colà. L'avvertii pure che prendesse un altro marito, ma ella non si piegò. Io sola posso dire quanto è caparbia costei. Ha figli? Domandò Miss Ofelia. Sì, ne ha due. Le deve rincrescere di esserne separata. Oh, capite bene che io non ho potuto condurli meco. Essi erano due sudici bamboci e naturalmente avrei avuto schifo di vedermeli intorno. Aggiungete che Mammy avrebbe dovuto dare loro troppo del suo tempo, ma io credo che ella ne conservi tuttora un certo rancore segreto. Mammy non vuole rimaritarsi e io sono certissima, benché ella sappia quanto le sue cure mi siano indispensabili e quanto sia infiacchita la mia salute, che se potesse ritornerebbe domani da suo marito. Eccovi ora dimostrato come sono egoisti perfino i migliori di costoro. Oh, fa ribrezzo a pensarvi, disse seccamente St. Clair. Miss Ophelia lo guardò fisso negli occhi e vide un rossore di indignazione repressa salirgli al viso e un sogghigno di amara ironia sfiorargli le labbra. Nondimeno, ella è stata sempre la mia prediletta, continuò a dire Maria. Vorrei che i vostri servi del nord potessero vedere il suo guardaroba, pieno di vesti di seta e di mussoline e di fazzoletti di tela batista. Qualche volta ho speso mezza giornata nel guarnire le sue cuffie affinché ella potesse recarsi con onore a una festa. Se si parla poi di cattivi trattamenti, può dirsi che Mamie non sa che cosa siano. Fu frustata soltanto una volta o due in tutta la sua vita. Tutti i giorni ella beve il suo buon caffè oppure il tè, carico come il nostro, col suo bravo zucchero bianco. È un grande abuso questo, lo so, ma che volete? St. Clair ama che i nostri schiavi nuotino nell'abbondanza. Fatto sta che si permette loro di soddisfare tutti i capricci e io credo che se essi sono tanto egoisti, in parte è colpa della nostra troppa indulgenza. Ma io, ne ho parlato tante volte a St. Clair che ormai ne sono stanca. E io pure, disse St. Clair prendendo in mano un giornale. Evangelina, la graziosa Evangelina, era stata ascoltando sua madre con quell'espressione di profondo e misterioso raccoglimento che le era proprio. Ella le si avvicinò e le gettò le braccia al collo. Ebbene, che c'è di nuovo, Eva? Disse Maria. Mamma, non potrei vegliarvi io una notte sola. Lo so che non irriterei i vostri nervi, né mi lascerei vincere dal sonno, spesso io sto desta notti intere pensando. Che pazzia, Eva, che pazzia! Siete una strana creatura davvero, figliuola. Me lo permettete, mamma? Io credo, soggiunse Evangelina timidamente, che Mamie non stia bene, ella mi ha detto che da qualche tempo ha sempre male alla testa. Oh, è questa una delle stranezze di Mamie, ma già, anch'ella è uguale in tutto agli altri, si dà per morta quando appena le duole un po' il capo o il dito mignolo. No, no, io non incoraggerò queste stranezze, mai. Ho i miei principi su ciò, disse Maria, rivolgendosi a Miss Ophelia, e voi vedrete quanto sia necessario d'averne, se permettete che gli schiavi infingardiscano e se li compatite per ogni piccolo male essi vi cagioneranno, siatene certa, un impaccio infinito. Per me io non mi lagno di nulla e nessuno sa quanto soffro, ma la pazienza è un dovere e io so rassegnarmici. All'udire questa perorazione, gli occhi rotondi di Miss Ophelia espressero una vera stupefazione, tanto comica, che fu impossibile a St. Clair di non prorompere in un violento scoppio di risa. St. Clair ride sempre quando io faccio la minima allusione alla mia cattiva salute, disse Maria con l'accento di una martire. Io mi auguro solamente non venga il giorno che gli abbia a ricordarsene. E Maria si coprì gli occhi col fazzoletto. Naturalmente a queste parole seguì un istante di silenzio, ma poi St. Clair si trasse di tasca l'orologio, si alzò e disse che un affare importante lo chiamava altrove. Evangelina lo seguì pian piano. Miss Ophelia e sua cugina restarono sole a quattr'occhi. Vedete com'è fatto, St. Clair? Prese a dire Maria, togliendosi il fazzoletto dagli occhi con un gesto disperato, non appena il suo sposo fu uscito. Egli non comprese mai, non può né vuole comprendere quali e quanti sono i miei patimenti da lunghi anni. Oh, se io fossi una di quelle donne che si lagnano e gemono per cose da nulla, egli avrebbe ragione di annoiarsi. Gli uomini si sdegnano che una donna parli loro sempre dei suoi mali, ma io ho taciuto, ho taciuto, ho sopportato tutto in silenzio, tanto che St. Clair ha finito col credere che io possa sopportare ogni cosa. Miss Ophelia non sapeva precisamente che risposta dare a sua cugina e mentre stava pensando a ciò, Maria si asciugò a poco le lacrime, si rassettò le vesti come appunto una tortorella si liscia le piume dopo una pioggia dirotta ed entrò a discorrere di armadi, di biancheria, di provisioni, di dispensa, di mille altre cose che venivano affidate a Miss Ophelia e moltiplicò tanto i particolari, le osservazioni, i consigli che una testa meno fortemente organizzata di quella di Miss Ophelia ne sarebbe restata confusa. E ora, concluse Maria, io penso che se la mia emicrania tornasse, voi sareste in grado di fare da voi, ma debbo ancora parlarvi di Eva, la quale ha gran bisogno di essere vigilata. Mi sembra un'ottima fanciulletta, rispose Miss Ophelia, non ho mai trovato un'indole migliore. Eva è molto singolare, ve lo accerto, continuò Maria. Oh, vi sono in lei cose del tutto strane, ella non mi rassomiglia in niente, purtroppo. E la madre di Evangelina sospirò come se fosse quello un grave soggetto di malinconia. Miss Ofelia disse nel proprio cuore: Lo spero bene. Ma ebbe prudenza abbastanza per tener nascosto questo suo pensiero a Maria, la quale riprese a dire: Eva è sempre stata incline a conversare con la gente di servizio, il che, badate, non mi farebbe temere per certi altri fanciulli. Per esempio, io ho giocato sempre coi neri di mio padre e non ne ho riportato alcun danno, ma Eva tratta con tutti come se fossero suoi eguali. E questa è una mania molto strana di mia figlia che mai ho potuto vincere, ma che volete, lo stesso St. Clair ve la incoraggia. Fatto sta che gli è indulgentissimo con tutti, tranne che con la propria moglie. E anche qui Miss Ofelia cercò invano nella sua mente una convenevole risposta. Eppure, per avvezzar bene i domestici, non vi è altro mezzo che trattarli come richiede la loro bassa condizione e far sì che la sentano, come ho fatto io fin dall'infanzia. In quanto a Eva, basterebbe ella sola per avvezzare male tutti i servi di una casa e non so, a dire il vero, di quali mezzi ella potrà fare uso quando dovrà governarli. Io sono di opinione che dobbiamo essere buoni e affabili con gli schiavi, e tale io sono stata, ma bisogna metterli anche al loro posto, e questo Eva non sa fare. Ella non riconosce affatto quali devono essere le condizioni di uno schiavo. Non l'avete udita voi stessa quando mi proponeva di vegliarmi al posto di Mammy per lasciar dormire costei? Oh, ciò vi sia un saggio di quel che farebbe se non fosse tenuta d'occhio. Ma, disse con accento aspro Miss Ophelia, suppongo che voi consideriate i vostri schiavi come creature umane che hanno bisogno di riposarsi al pari di noi? Certamente. E ho la più gran cura di provvederli di quanto loro occorre, purché, ben inteso ciò, si accordi con il loro dovere. Mammy può dormire un momento o l'altro ed ella lo fa, siatene certa. È la più gran dormigliona che abbia mai conosciuta. Cucendo, in piedi o a sedere, ella dorme in qualunque luogo si trovi. Ma che si debbano trattare i servi come se fossero piante esotiche o porcellane della Cina, vi dico in verità che è una cosa affatto ridicola. Così parlando, Maria si tuffò fra i morbidi e voluminosi guanciali di un ampio divano e si portò sotto al naso una boccettina di odori.